quale sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Buonasera! Buonasera a tutti, questa è Radio Alma, I colori dell'anima, 101.9 FM, qui da Bruxelles, da Saint-Gilles, dal Centro delle Culture. Buonasera e qui davanti a me c'è Giampaolo. Ciao a tutti. Alla regia c'è Angelo. Ciao, siamo di nuovo qui dopo tanto tanto tempo. Dopo un mese. Sì, sì, sì. Ben trovati ragazzi. Oggi 27 maggio, sono le ore 21, vi faremo compagnia fino alle ore 22, sempre su 101.9 FM oppure su radioalma.eu. Con la nostra diretta streaming, oppure come sapete ci potete seguire dalla nostra pagina Facebook Angelo e Carla On Air, dove vediamo che c'è già collegata Rossella Riggio. Ciao Rossella. Ciao Rossella. E vi ricordo che dovete assolutamente intervenire alla nostra trasmissione con tutto quello che volete, diteci la vostra opinione, oppure non lo so, prendete in giro i nostri ospiti e sono sempre benvenute le prese in giro, telefonando come? Telefonando al numero di telefono della radio, di Radio Alma, che è 02 345 26 56, oppure per chi chiama dall'Italia 0032 2345 26 56, oppure mandando un SMS al numero di cellulare che molti di voi conoscono già bene, che è lo 0032 471 407804. Ripeto, 0032 471 407804. E insomma aspettiamo. Vabbè, i vostri io vi consiglio commenti. Di chiamare a quello fisso, perché stasera in studio abbiamo una voce calda, abbiamo una voce caliente che vi risponderà a telefono. Beh, se volete scoprire chi è e com'è questa voce, chiamate. Voce calda, già, chissà quanti si sono incuriositi. Chi ha ascoltato la puntata di tanto tempo fa, che avevamo ospite un personaggio con la barba lunga, può capire. E la trasmissione di stasera sarà ricca di contenuti. Passeremo da una tematica ad un'altra, così, con una leggerezza estrema, partendo dalla musica e in particolare da un lungo weekend che sarà il secondo weekend di giugno, che sarà ricco in concerti, che ospiterà Bruxelles e in particolare varie città del Belgio. Ospiteranno dei concerti di un quartetto di cui adesso daremo delle informazioni con il protagonista, Paolo Loveri. Buonasera a tutti. Ciao Paolo, bentornato. Grazie. Ormai Paolo è un affezionatissimo, sì. Cioè noi la tua terza puntata. Sì, sì. Gli rinnoviamo in eterno. Ormai ti diamo le chiavi dello studio. Puoi venire anche la mattina, rimani qua, poi ci vediamo il lunedì sera. Sì, mi porti i cornetti. Membro ufficiale di Radio Alma ormai. Beh, allora io direi di far ascoltare un po' di musica di Paolo Loveri per poi presentare questo fantastico quartetto che verrà qui dall'Italia, parte con un fenomenale batterista belga di cui ci parlerà Paolo. Beh, estraiamo dal suo album che ha fatto in collaborazione con Pietro Condorelli un brano bellissimo. Io ho avuto modo di suonare questo brano con Paolo e mi sono emozionato. Per voi a Radio Alma 101.9 FM, Paolo Loveri con Little Girl. I colori dell'anima, bentornati in diretta qua su Radio Alma, www.radioalma.eu per chi ci ascolta dall'Italia e quindi in diretta streaming, mentre invece per chi ci ascolta dalla soleggiata oggi stranamente Bruxelles, FM 101.9. Io vi ricordo che siamo qua in diretta, abbiamo ascoltato dei bellissimi pezzi di Paolo Loveri, che presto suonerà qua a Bruxelles con il suo quartetto. Paolo, vogliamo ricordare ancora una volta le date affinché i nostri ascoltatori possano prendere nota delle date corrette. E allora il mercoledì a Liege a Jacques Pelzer, il giovedì al Music Village, il Bruxelles, il venerdì è a Mazy, il sabato è sempre a Bruxelles al Flamingo Jazz Festival, e poi basta, la domenica è una data privata. E per chi non è pratico, dov'è il Mazy? Jean Blue, vicino a Monsieur, si chiama Mazy proprio il posto, si chiama Neuf Jazz, è un club di jazz che sta... Pensavo fosse il nome del locale. Sempre a Bruxelles. Okay. No, non è a Bruxelles, questo è vicino Namur praticamente. Ah, vicino Namur, sì. Ok. Quindi dal 6 al 9 giugno non buona perdetevi musica a Bruxelles e dintorni, ottima musica con Paolo Loveri e il suo quartetto. Ciao Paolo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, è sempre una grande emozione. Aspetta, io avevo una domanda qua sulla gola, infatti è venuta la tosse, talmente avevo questa domanda. Non abbiamo chiesto a Paolo perché ha formato questo quartetto, noi sappiamo che non gli mancavano musicisti con cui suonare. Qualcosa che volevo fare con Marco Sannini e Tonino De Sensi a Milano, e poi in progetto c'era fare un disco, e probabilmente dopo questa tournée si comincerà in Austria pure, a Vienna, a Graz, dove già siamo stati. Una tournée europea, sì, siamo stati in Slovenia molto scorso, cercheremo di andarci e poi cercheremo di arrivare fino a giù in Italia, a Napoli. Però magari una persona dice, cioè, tanti musicisti qua, perché proprio loro, cosa ti ha spinto a complicarsi la vita, invitarli, dire no, io voglio fare questa cosa con voi adesso? Perché voglio fare una qualcosa con i musicisti italiani. Sono 23 anni che abito qui. La volevo uscire questa frase. Allora, questa frase devi sapere, con i musicisti italiani, perché questo non lo sai, questo è un'anteprima. Abbiamo fatto un gruppo anche con Angelo. Che ci sarà prossimamente, ci sarà un gruppo. Rivelazioni importantissime a Radio Alba. Sì. Ancora con altri italiani, poi, che tra l'altro, perché il bassista è italiano, sì, e il batterista è anche batterista, non ne parliamo proprio, è italianissimo. È napoletanissimo il batterista. Super napoletano. Paolo, ma non finisce qua, perché i nostri ascoltatori, anche loro sono molto curiosi, sì, perché ascoltano Carla e quindi diventano curiosi anche loro. E allora io mi scuserò, perché i nostri ascoltatori sono un po' così. Michelangelo ci chiede, ma Pietro Condorelli è quello che fa anche Torroncini? No, non è quello che... Non è il commendatore Condorelli. Michelangelo non è il commendatore, Si chiamava lui come quello che faceva... Commendatore Condorelli, storico. No, non è lui. Come mi ricordano dalla regia, con dei cenni molto, molto visibili. Va bene. Grazie di avermi ascoltato. Grazie mille, grazie Paolo, alla prossima, di essere stato ancora con noi. Grazie. Ciao. E passiamo ad una seconda fase di questa serata. Cambiamo completamente registro, passiamo veramente a tutt'altro. E in realtà passiamo veramente allo zucchero, a qualcosa di un po' diverso. Parliamo di matrimonio. Sì, ma non visto da, come al solito, da quelli che sono coinvolti in maniera particolare, in maniera personale. Ma di chi è coinvolto in maniera secondaria e indiretta, ossia la famiglia, che si deve sorbire tutto lo stress degli sposi che sono alle prese con i preparativi. E per questo abbiamo trovato degli ospiti spettacolari che sono qui in studio con noi, Antonio e Teresa. Buonasera. Ciao ragazzi. Allora, voi siete genitori. Papà. sono molto emozionato, è la prima volta. Allora, forse è meglio che la signora Teresa si metta la cuffia. Allora, ci siamo detti quali potrebbe essere un nuovo punto di vista per parlare di questo argomento vecchio quanto il mondo, sia il matrimonio. E quindi ci siamo detti, troviamo qualcuno che ha un nuovo punto di vista, ossia i genitori, e che vivono sicuramente, che hanno vissuto in primis questa cosa quando si sono sposati loro, e adesso lo rivivono in un altro modo, da un altro punto di vista, con altre emozioni, e magari, ci possono dire come lo vivono. Petta madre! Personalmente, quando mi sono sposato l'ho vissuto da incosciente, adesso che sta per sposare mio figlio lo vivo coscientemente, sono molto cosciente di questa cosa, è come un'avventura in mongolfiera, le cose così. Tipo quando impari a nuotare, sei piccolo, non immagini che ti può succedere qualcosa, poi dopo... Mi sento molto emozionato. Ma voi dovreste vedere Tonino, c'è una persona spontanea che non ha mai vergogna. Ma adesso lo vediamo tutto lì sulla sedia che non si muove, sembra è strano. E poi alla mia sinistra c'è Teresa, mamma di uno sposo. Sì, sono la mamma di uno sposo e molto emozionata per l'evento. E anche perché quando mi è stato comunicato ho realizzato che mio figlio era diventato grande. E c'è tanto stress, tanta emozione, tante cose da fare, però è un momento bellissimo. Come ve l'hanno detto? Non mi ricordo. Viva la sincerità! Eravamo a cena. Erano in due però a dirci. Sono stati in due a dirci. No. Ci hanno fatto bere. Molto. È tecnico. E dopo aver mangiato e bevuto tanto, ci hanno detto: mamma, devo dirti una cosa, dobbiamo dirti una cosa. Cosa? Noi ci sposiamo. Oddio. Felicità, stupore, tutte le emozioni possibili e inimmaginabili. E adesso viviamo questa cosa bellissima. Una bellissima emozione, immagino. Si vede proprio, voi per radio non potete vederlo, però la signora Teresa è veramente emozionata. Proprio negli occhi si vede questa immagine del momento in cui riceve questa notizia e dice: oddio, è cresciuto. Sì, è grande, è proprio grande. Si realizza un po' in quel momento, diciamo, il pensiero che un po' di tempo è passato. E quindi adesso cominciano i preparativi, poi. Sì, i preparativi, le corse. Io ho già comprato le biciclette per i bambini, le bambine, le macchinine. Si è portato avanti. Sì, sono già avanti. E il vestito? Il vestito è stata una forte emozione. Abbiamo litigato molto. Il tuo o il suo? No, il vestito dello sposo, chiaramente. Lui il protagonista non sono io. C'è stato un po' di disaccordo, però poi alla fine ho rispettato il tutto e ho pianto. Quando lui ha provato l'abito, io ho pianto. Io no, ho guardato solo il colore dei suoi calzini, orridi. Perché saranno colorati? Moltissimo. A fiori? Sì, anche con delle farfalle. Attenzione, anticipazioni da matrimonio. Ma io invece da figlio sono un po' curioso di sapere perché, Teresa, perché avete litigato sul vestito. Cioè, perché io mi immagino la scena con mia madre, che le mamme sempre vogliono i figli che siano perfettini, con l'abito molto classico, con la riga di lato, con i capelli sistemati. E io già mi immagino che sono là che dico: no, ma che è sta cravatta, ma cos'è sta cosa, ma io così, così. È andata così anche in questo caso? Sì, è andata così. Non posso addentrarmi nei particolari perché potrebbe esserci la sposa in ascolto, quindi non svegliamo troppo. Dovrà essere una sorpresa anche per lei, come lo è stata per me. Quindi mi confermi che c'è un po' sempre sta diatriba tra il figlio che vuole essere un po' più libero e la mamma che invece va la più perfettina. Ma io devo dire, ragazzi, avete già fatto colpo su Facebook, perché arrivano complimenti da tutte le parti. Complimenti da Carmelo Starrantino, complimenti da Rossella Riggio, grandi Antonio e Teresa. Antonio, hai proprio una voce bellissima in radio. Elena e Michelangelo ti salutano. Sì, me l'hanno già detto, è una voce cacofonica. E io invece sono la voce calda delle radio Alm. È arrivato il primo messaggio e lo leggo. Mi chiamo Turi Canalicchio, faccio di mestiere tassista per i novelli sposi e quando emozioni ho provato a vedere tanti figli di mamma maritarsi tutti gioiosi e pimpanti, ma tante lagrimucce di mamma e papà, anche loro di gioia che finalmente si sono sbarazzati di piccoli mammoni. Chi dobbiamo ringraziare per questo messaggio? Chi è che ci manda questo messaggio? Non si è fermato. Anonimo. Ringraziamo l'anonimo. Chiaramente ci spadano a giudicare dall'accento. La voce calda della regia annuncia che è arrivato un altro messaggio. Uffa, uffa, uffa. Uffa, uffa, uffa. Collegamento internet questa sera si interrompe continuamente, ma anche a singhiozzo. Siamo felicemente in vostra compagnia. Anche questo era anonimo? Anche questo? No, non è anonimo, si chiama Rossi. Ciao Rosy. Ciao Rosy, ciao. Ciao Rosy. Penso che è arrivato proprio il momento di prenderci qualche minuto di musica. E Angelo, cosa ci fai sentire? Sì, prima che qualcuno cominci a pensare male di questa trasmissione radiofonica. Che cosa ci fate sentire dalla regia? La voce calda della regia presenta Mango, Bella d'estate. Che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera, benvenuti ai colori dell'anima su Radio Alma 101.9 FM. E stasera, dopo una parentesi musicale dove abbiamo ospitato Paolo Loveri, che ha un po' pubblicizzato il suo progetto con il Paolo Loveri Quartet tutto italiano, che sarà in Belgio con varie date che non oso ripetere per non sbagliare, ma che sono sulla nostra... Dal 5 all'8 giugno. Esatto, dal 5 all'8 giugno saranno in concerto in Belgio in varie date. L'unica che mi ricordo di cui sono sicura è il 6, quindi giovedì 6 giugno al Music Village, perché noi ci andremo e quindi vi aspetteranno anche loro. E cambiamo pagina e ritorniamo alla questione del matrimonio. Abbiamo parlato di una nuova angolatura, un nuovo punto di vista sul matrimonio vissuto dalla famiglia, quindi dai genitori, più tardi vedremo da un fratello. E qui in linea abbiamo dall'Italia, abbiamo un altro genitore, abbiamo una mamma che vive quindi questa preparazione del matrimonio. Vediamo che cosa ne dice. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Lei è una mamma di un genitore, è la mamma di uno sposo o di una sposa? Di una sposa. Di una sposa. Come sta vivendo questa preparazione? Prima ci dica come si chiama, signora. Sicure per l'evento. Signora, come si chiama? Clementina. Buonasera, Clementina. Che bel nome. Allora, come gliel'hanno detto questi sposi? Un giorno, l'11 settembre, l'11 arriva, che data? Noi ci vogliamo sposare. È stata una notizia così, su due piedi, sono rimasta, ma è vero, non è vero. Comunque quasi non ci credevo, e poi piano piano abbiamo realizzato che è vero. E come l'ha presa, signora, questa notizia? È una cosa che non si può spiegare, solo chi lo sente lo vive in un modo che non ci sta un minuto che ti stacchi da questa cosa. È molto forte. Signora, lei se lo sogna questo matrimonio? O la notte? Come? Minuto per minuto. Ma sono sogni belli o incubi? Belli, no, belli. Belli, con un bel avvenire, perché la coppia è meravigliosa. Stanno bene insieme, sono affiatatissimi. Senta, lei gli hanno delegato delle cose, l'hanno messa a fare delle qualcosa della preparazione, l'hanno coinvolta in qualche modo? Sì. Lavorano molto loro, però siamo a conoscenza di tutto. In tutto scelgono loro, però siamo a conoscenza e siamo contenti delle loro scelte. E sarà un matrimonio religioso o civile? No, religioso, religioso. Noi ci teniamo. Con confetti o senza? Con. Con confetti. Senta, signora Clementina, ma il padre dello sposo cosa dice? Della sposa. Sì, è sempre un poco più geloso della figliola, certo. È geloso. Sì. Beh, da buon padre. comunque è contento, almeno la vede sistemata, con un ragazzo a fianco che la riguarda ancora di più. Sì, siamo tranquilli. Un ragazzo che l'ha? La riguarda, che si prende cura di lei, sta in buone mani, no, ecco. Insomma, signora Clementina, questo matrimonio lo possiamo dire, sa da fa o non sa da fa? sa da fa. E allora la ringraziamo, grazie di essere stata in linea con noi, un abbraccio forte da Radio Alma, dai colori dell'anima, dai nostri ospiti, da Antonio, Teresa, da Giampaolo, Angelo, okay. E rimanga in ascolto, un abbraccio e a presto. Arrivederci, signora Clementina. Buonasera. Buona serata. E siamo di nuovo qui ai colori dell'anima. Dopo questo ospite, vi anticipiamo che ci sarà ancora un altro ospite. I colori dell'anima, e questa che avete ascoltato era Sotto casa di Max Gazzè, bellissimo pezzo dell'ultimo album di Gazzè, che tra l'altro qualche mese fa è venuto a suonare anche qua a Bruxelles e ha fatto un bellissimo concerto. A me piace molto personalmente Max Gazzè, quindi lo salutiamo. Ciao Max. E ritorniamo in studio, dove abbiamo lasciato i nostri meravigliosi ospiti a parlarci di una tematica oggi un po' così frizzante, emozionante, divertente per certi versi, che è il matrimonio. Però il matrimonio, come abbiamo detto prima, visto non dai protagonisti come si fa di solito, bensì dalle persone che stanno attorno e che secondo me vivono questo momento, soprattutto i preparativi, in modo molto molto intenso, perché devono avere a che fare con queste persone, con questi futuri sposi, non gli sposi che sono là alle prese con nervosismi, con tensioni, con... E abbiamo ascoltato il punto di vista dei genitori, mentre invece adesso vi presentiamo un altro ospite che è venuto a darci un punto di vista diverso, che è quello del fratello. Benvenuto Alessio. Ciao ragazzi, non so che dire. Intanto dici da dove vieni. Da Salerno, ciao Alessio. E quindi si sposa tuo fratello? Sì. Fratello maggiore, fratello minore? Maggiore. Ci hai pensato? Non eri sicuro, hai fatto un po' di calcoli. Sì. E l'emozione. Senti Alessio, ma allora, tu come abbiamo chiesto anche agli altri, anche tu dici, come l'hai saputo? Io l'ho saputo perché eravamo a tavola e quindi l'ho saputo insieme. Quindi abbiamo Carla, abbiamo accertato che la tavola è proprio il posto preferito dagli italiani. La tavola aiuta a comunicazioni di tipo matrimoniale. Se non volete che i vostri figli si sposino, non mangiate con loro. Hanno fatto bere anche te quella volta, quel giorno? Diciamo di sì, un pochino, ho bevuto anch'io. Quindi l'hai saputo insieme agli altri, non è stata una confidenza che ti ha fatto sì. Tuo fratello? No, infatti mi aspettavo che mi facesse la confidenza, ma... Attenzione! Rimprovero per il fratello. Fratello, se sei in ascolto, fratello di Alessio, se sei in ascolto, sappi che tuo fratello voleva la confidenza. E come hai reagito Alessio? Che ti è passato di questa... Ci sono un po' rimasto, perché all'inizio pensavo fosse uno scherzo, sai, come quando dici domani compro una cosa per te e poi non te la do, e quindi non ero convinto che fosse veramente... Ma noi sappiamo, Alessio, che tu avrai un ruolo particolare in questo matrimonio. Quale sarà il tuo ruolo? Lo sappiamo, abbiamo una spia che ci informa. Se non sbaglio sarai testimone. Ah, sì, testimone, sì, perché non mi ricordavo lui bene. Lui aveva rimosso già. È scioccante, scioccante. È tanto scioccato, dice, no, basta, rimuovo tutto. Sì, facilmente mi dimentico di... Testimone. Questo ruolo ti entusiasma, ti fa piacere, hai accettato? Sì, mi fa piacere, l'ho accettato un po', diciamo, titubante, perché non sapevo che cosa dovevo fare, non sapevo... Una firma, Alessio, portati una penna. Vabbè, però dai... Ed è la persona con cui starà, ti fa piacere oppure... Sì, mi fa piacere. Ma tu la conosci? Tu la conosci lei, la tua futura cognata? Sì, diciamo di sì. Non temere, potrebbe essere all'ascolto però. Stiamo sempre insieme, cioè usciamo fuori, mangiamo con mio fratello. Ah, quindi la conosci bene? La conosco, sì. E va bene, quindi abbiamo avuto un altro punto di vista. Questo rispetto, come lo vedi Giampaolo, rispetto a un punto di vista di un genitore, come ti è parso il punto di vista di un fratello? Il fratello è già, non lo so come dire, forse è un attimino più razionale, apparentemente più razionale nell'analisi, nel rapporto. Però perché io per male c'è un rapporto paritario, però è emozionato, l'ho è chiaramente scioccato. Toccato da questa cosa, poi voleva la confidenza, quindi voleva... un rapporto privilegiato. E beh, però sarai testimone. Sarai sì. testimone, quindi un ruolo privilegiato c'è. Un ruolo molto privilegiato. Ma a quanto pare abbiamo nuovi collegamenti dall'Italia di altre persone. Se non sbaglio, a questo punto saranno fratelli o sorelle. Dalla regia, informatemi. Sono fratelli o sorelle di sposi. Vediamo se ci sono altri fratelli o sorelle che ci chiamano a Radio Alma. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Ciao! Con chi parliamo? Ciao, sono Giovanna. Ciao Giovanna! Ciao Giovanna! Sorella di una sposa. Ah ecco, finalmente una che sorella. Che sciorta, anche. Come si direbbe da noi, che fortuna! Insomma, come ha reagito a questa novità, a questa notizia? Ma un po' incredula, poi pensavo, vabbè, hanno deciso, sarà poi chissà quando, invece no, hanno fissato la data veramente, meno di un anno. Senti Giovanna, ma hai pianto? Allora. Hai pianto? Ho pianto? No, no, non ho pianto, no, perché comunque... Dai Giovanna, facci emozionare, dai! Mi sto riservando le lacrime per quando li vedrò sull'altare, quando li vedrò da vicino. Lacrime parsimoniose. Mm-hmm. E avrai un ruolo particolare? Sarai un'invitata come gli altri? Sono testimone. Ok, anche tu. Quindi i fratelli, diciamo, nuova regola, i fratelli sono testimoni. Abbiamo imparato la seconda cosa dei matrimoni in Italia, cioè che l'annuncio viene fatto a tavola e i fratelli e le sorelle fanno i testimoni. Ecco, questa è una nuova regola, un postulato. Quindi ascoltate Radio Alma perché si impara veramente tanto a organizzare questo matrimoni. Lo dobbiamo dire. Senti Giovanna, ti hanno dato responsabilità, pronto, ecco, ti hanno dato responsabilità, compiti, rotture di scatole. Tanti compiti, è gravosissimo, spero, ma sono quasi sicura che mia sorella non mi stia sentendo, quindi mi posso lanciare. Sono una palla tutti e due, perché ti fanno venire sensi di colpa, capito? Poverini, sono stressati e va bene, non fa niente, e facciamo questo e facciamo quell'altro, ma deve passare questo matrimonio, cioè già fa passare proprio tutto quanto. Brava Giovanna, allora diciamolo che questi sposi quando diventano nevrotici con l'avvicinarsi della data, brava, sono Giovanna, veramente insopportabili. Faglielo vedere, faglielo toccare. Va bene Giovanna, allora aspettiamo insieme a te impavidi questo giorno in cui tu gliela farai vedere, e quindi ti ringraziamo per la tua telefonata, per la tua testimonianza, un abbraccio da Bruxelles, da Radio Alma, e una buonissima serata. Grazie. Ciao Giovanna, no, ciao. Ciao. E siamo di nuovo qui con sempre i colori dell'anima a parlare del matrimonio visto dai familiari. Ricordiamo se ci sono altri fratelli, sorelle, cugini o genitori, figli perché no, magari, che vogliono parlare del matrimonio dei loro prossimi. Anche cugini, cari, sono i benvenuti, qualunque zii, cosa, nipoti. Pronipoti. Ciao da Rachele, amici, dietro tutta ci casa. Tratteneva svegli fino a tardi, nonostante le sgridate di mamma, siete magnifici, siete grossi. Rachele, hai sbagliato puntata, quella era la puntata di un mese fa, adesso stiamo parlando del matrimonio. Ciao Rachele! Ciao Rachele, va bene. Dai, non è mai troppo tardi, va bene. E noi vi passiamo un nuovo brano e dalla regia... No, mi sono sbagliata. Dalla regia Mario Bianchi non abbiamo il brano. Ma qui abbiamo Antonio e Teresa che ci volevano raccontare un episodio della preparazione del matrimonio che particolarmente li aveva scioccati. E c'è Tonino che sta riflettendo, si sta concentrando per raccontarlo al meglio. In questo momento non mi sovviene, però... Mi avevi parlato prima nella pausa di un evento che riguardava la chiesa, qualcosa che riguardava un duomo lì, Caserta Vecchia, qualcosa. Che cosa era successo? No, è successo questo, che il figliolo aveva prenotato, aveva, diciamo... La chiesa? Sì, la chiesa. E poi nulla, il sacerdote si è proprio dimenticato e ci ha detto... Guarda, mi sono sbagliato, ti devi sposare in un orario diverso, in un giorno diverso. Addirittura mi dicevi che il prete aveva proposto anche un matrimonio a quattro. Sì, alla fine. Quattro. Cioè, vabbè, un'unica ingarrettata. Vai, sposiamoci tutti, sì, evviva. Sì, alla fine sì. Però... formato risparmio. Sì. Però poi non hanno accettato, hanno cambiato chiesa e secondo me è molto meglio così. Ok, quindi questo è stato l'episodio che ti è rimasto più impresso? Sì, perché in effetti, sai, vedersi poi alla fine, cioè per loro soprattutto, trovarsi senza chiesa è come... È stato brutto, scioccante. Brutto. Sì, Tonino, io a questo punto ti devo interrompere, perché a quanto pare abbiamo ancora un altro punto di vista di un nipote. Sbaglio? Ho capito bene dalla regia? È pronto il nipote? Pronto? Pronto nipote? Pronto nipote? Con chi parliamo? No, con una zia. Antonella. Ah, Antonella! Ciao Antonella, sei... Scusami per la voce, ma sono raffreddata. No, figurati, sono io che non avevo capito che eri una zia. Raffreddata, ma nonostante tutto vuole dire la sua Radio Alma. Brava Antonella! Grazie di essere con noi in linea. Allora, questo nipote sa da sposà o non sa da sposà? A malincuore, sì. Come a malincuore, Antonella? sei attaccato a tuo nipote? Sono molto gelosa, però sono contenta per lui e per la sua futura moglie. Ma è il nipote più grande? Pronto? Pronto, Antonella, è il nipote maggiore, il nipote più grande che si sposa? È il nipote più grande. Ecco, là, è sempre lui, il nipote più grande, quello verso cui ci sono più gelosie, è sempre così. Senti, l'ho cresciuto, quindi... Senti, ci puoi raccontare un piccolo episodio, un qualcosa di particolare che ti unisce a tuo nipote, che ti piacerebbe condividere con i nostri radioascoltatori? No, vabbè, in effetti io mio nipote l'ho cresciuto, sono stata sempre con lui perché da piccolo piangeva sempre, quindi in effetti, siccome la mamma la notte dormiva... E io e l'altra zia badavamo a questo bimbo che piangeva. Evviva le zie che si prendono.